Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Buonasera, benvenuti a Mebius. Questa è una puntata speciale perché sarò da sola, sentirete solo la mia voce perché mi trovo a Cibus, la fiera di Parma dedicata all'alimentazione. In questa settimana io e la redazione siamo andati in giro tra gli stand per cercare le tecnologie e l'innovazione che vi racconteremo in questa puntata. Nel nostro stand di Radio 24 nel frattempo mi hanno raggiunto Eugenio Pellicciari. Buonasera Eugenio, grazie per essere venuto qui, di Italian Hopes Company. Adesso ci faremo raccontare che cos'è, una startup, un'impresa innovativa nell'ambito del luppolo italiano. E Tommaso Ganino, ricercatore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti qui all'Università di Parma, quindi giocate in casa. Qui a Cibus avete raccontato durante un seminario un'avventura interessante legata al luppolo italiano. Si chiamava Luppolo Italiano coltivando la rivoluzione. È una rivoluzione, adesso capiremo perché. Perché intanto non esiste un luppolo italiano coltivato in maniera ampia, non esiste una materia prima di questo tipo. Infatti diciamo che i birrifici utilizzano un luppolo proveniente dall'estero, dalla Germania, dai paesi anglosassoni e dai paesi dell'est. Però qualcosa si sta facendo dal punto di vista della ricerca per la selezione del genoma di un luppolo autoctono italiano, e qualcuno lo ha già iniziato a coltivare. Così Eugenio, qui vicino, insomma, zona Modena. Sì, esattamente. Avete messo giù 2,5 ettari. Abbiamo circa 2,5 ettari. Innanzitutto ciao, grazie mille dell'invito. E sì, noi siamo partiti nel 2014 come spin-off del progetto di ricerca dell'Università di Parma, appunto, su un progetto a Marano sul Panaro e in provincia di Modena, e siamo partiti come, diciamo, azienda che fa produzione e commercializzazione a livello vero e proprio, a livello ufficiale, di luppolo, e siamo stati la prima azienda in Italia a fare proprio questo tipo di attività ufficiale. C'è un motivo per cui il luppolo italiano non è coltivato, non è stato coltivato? Forse anche la considerazione della birra come prodotto, diciamo, più popolare, una questione culturale, storica, perché? Beh, è esattamente questo, ed è questa l'idea da cui nasce anche il progetto, cioè il fatto che comunque è la constatazione banale che in Italia, in contrasto con lo sviluppo per tutti i birrifici artigianali che sono sorti negli ultimi, diciamo, 20 anni, a partire dal 1996 venire in avanti, di cui oggi si parla, il numero sia intorno ai 1000, e non ci sono produzioni vere e proprie di materia prima, nello specifico soprattutto di luppolo, perché di orzo qualcosa si sta facendo, soprattutto è un po' più semplice la filiera dell'orzo, ecco. Mentre il luppolo è una cosa un po' più complicata, diciamo il processo di produzione e di trasformazione è molto molto specifico. Ecco, perché la birra di fatto è un equilibrio, ovviamente orzo e malto, e il luppolo che dà invece quel sapore un po' più amarognolo. In realtà la stragrande maggioranza delle birre prevede un più o meno utilizzo di luppolo, cui con l'amaro si bilancia il dolce del malto, e poi c'ha una parte aromatica che va appunto a creare un bouquet sia in bocca che al naso di aromi importanti per la birra. Ecco, allora ci dicevi una questione culturale. Sì, diciamo che come con in Italia abbiamo un bagaglio che ci portiamo dietro dai nostri avi, epoca latina, epoca romana, in cui diciamo un po' per l'avvicinamento al cristianesimo, un po' per le tradizioni, vino, olio e il grano erano i prodotti, diciamo, tipici. La simbologia romana è certamente il calice di vino, certamente. Esatto, sì, esatto, un po' per il fatto che comunque questi prodotti derivano dall'Eucaristia, proprio dal, cioè sono, ah certo, anche una simbologia religiosa. Certo, e sono proprio diciamo prodotti eucaristici simbolici del cristianesimo. E questi simboli andarono in forte contrasto con quella che era un'altra cultura del momento, che era appunto la cultura germanico-barbara. L'antitesi tra vino e birra è quella che poi si è riproposta a livello culturale, ci siamo portati avanti fino al XX secolo stesso, in cui per esempio durante il ventennio fascista vennero promosse produzioni autarchiche nazionali e un certo protezionismo nei confronti dei prodotti esterofili. I prodotti che arrivavano da fuori, certo. Ok. E quindi capiamo perfettamente perché magari si è fino adesso lasciata un po' in disparte, però come dicevamo adesso, la cultura un po' sta cambiando, sì, perché ovviamente me lo direte voi, i birrifici adesso si stanno allargando, c'è un sacco di produzione anche artigianale, microbirrifici di qualità molto eccellente. Tommaso Ganino invece è colui che fa ricerca, cioè colui che sta selezionando, ovviamente con il team, sta selezionando i genotipi, sta selezionando le variabili che influenzano questi genotipi, ovvero l'influenza delle malattie, il clima, in che modo possono queste piante poi davvero sopravvivere al clima italiano, e c'è un campo sperimentale anche. Sì, ciao, c'è un campo sperimentale che nasce ormai da un po' di tempo, dal 2012 che abbiamo iniziato questa bella attività, grazie anche al volere di un sindaco un po' avanti rispetto a tanti altri sindaci, che è Emilia Muratori, sindaco del comune di Marano sul Panaro, che ci ha permesso di coltivare questa rivoluzione e quindi di fare ricerca però applicata appunto ai nostri giovani, che sono quelli che servono. Di fatto che cosa fate? Cioè provate i vari... Sì, noi abbiamo questo campo dove testiamo sia varietà coltivate all'estero, ma soprattutto il nostro obiettivo finale è quello di selezionare lupoli completamente italiani. Ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo un po' di selezioni che a breve saranno registrate nel registro delle varietà nazionali e speriamo di soddisfare le esigenze di questi nuovi birrifici che, si sa, hanno tanto estro i birrai italiani, e quindi questo ci incoraggia a continuare questo lavoro. Ecco, non tutti i genomi sono uguali, non tutti danno gli stessi risultati, alcuni sanno anche di aglio. Sì, quella è la nostra discriminante, ecco. Anche se potrebbero essere utilizzati in cucina, ma il nostro obiettivo è la birra naturalmente. Alcuni sanno di aglio, li eliminiamo, quelli bisogna scartarli. Ma tanti invece sanno di aromi un po' più pregiati, parliamo di agrumi, parliamo di floreali, parliamo di erbacei, parliamo di resinosi. E analizzando questa grossa biodiversità ci siamo accorti che l'Italia è un paese che potrebbe darci molto anche da questo punto di vista, e questo ci incentiva ad andare avanti, soprattutto se un'azienda ci segue e ci crede come noi in questo, certo, progetto. E quello che vi sta dando più soddisfazioni, mi dicevi, che è il genoma Gianni. Sì, Gianni è il nostro piccolo cavallo di battaglia, sia per il nome un po' assurdo che naturalmente gli abbiamo dato, sia perché è un lupolo umile. E noi siamo partiti proprio da quello, dall'umiltà di poter ricreare un ambiente un po' più ricco. Vi assomiglia. Sì, ci assomiglia tanto e ce lo portiamo dietro, faremo delle magliette. Però dal punto di vista delle qualità organolettiche è stato selezionato anche per quello, perché è di qualità. Sì, è stato selezionato non solo per il nome, ecco, ma anche perché ha un profilo aromatico abbastanza bilanciato e quindi permette ai birrai di poterlo utilizzare in molte ricette. Ok. Tommaso, so che ci tenete adesso in conclusione a darci un appuntamento. Sì, vi diamo un appuntamento per diciamo la nostra festa, ma soprattutto la festa del lupolo, che si terrà il 15 e il 16 luglio nel comune di Marano sul Panaro, dove saranno presenti sia stand della birra, visto che di quello parliamo, ma soprattutto, siccome parliamo molto di lupolo, ci sarà un seminario scientifico dove illustreremo i nostri risultati. E la cosa più bella, presenteremo i genotipi migliori, quelli che abbiamo selezionato. Dai, allora torneremo a parlarne, va bene, allora in bocca al lupo, grazie. Crepi. Adesso ci fermiamo per qualche istante per le informazioni sul traffico e poi torniamo, sempre da Cibus. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Continua il nostro viaggio qui a Cibus, Parma, per raccontare quelle che sono le innovazioni, le tecnologie al servizio dell'alimentazione. Qui con me c'è Fabio Provedi, buonasera Fabio, benvenuto. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Di Zucchetti Centro Sistemi, che è una società che sviluppa software, e adesso andiamo a raccontare che tipo di software. Sono software che permettono la tracciabilità e la rintracciabilità del cibo. Allora, è un tema estremamente interessante e importante di questi tempi, perché sappiamo quanto sia importante la certificazione, la garanzia della qualità di ciò che mangiamo. La vostra società ci permette di sapere cosa succede dal campo fino a noi consumatori. Ecco, voi mi avete fatto qualche esempio, ora lascio a lei la parola per raccontarci che cosa fate, a partire dal pane toscano fino ad arrivare al pecorino sardo. Sì, esatto, sono due esempi dove le nostre tecnologie hanno accompagnato diciamo, i consorzi, i produttori nella tracciabilità dei prodotti. Nel caso del pane toscano noi partiamo fin dalla tracciabilità del lotto di sementi che viene messo a dimora negli appezzamenti, per arrivare poi a consegnare, diciamo, al consumatore finale un cosiddetto filone di pane con tutte le informazioni dei processi che sono stati fatti sullo stesso. Naturalmente questo significa che ogni attore della filiera deve lasciare una sua traccia su quello che fa a livello di processo. Il molino naturalmente, quando riceverà il grano, lo farà la molitura e andrà a specificare su quale lotto e che cosa ha fatto, così come il panaio, quando farà il pane, dirà qual è il lotto di farina proveniente da quale molino e dirà qual è la resa. Allora, diciamo che ogni attore, ogni step della filiera può in qualche modo dare il proprio contributo, dare la propria traccia. Esatto. Questo attraverso un software, cioè il software esiste, solitamente viene gestito dal consorzio, da coloro che garantiscono la certificazione di OP, di OCG, a seconda di quello che è del prodotto, e ogni attore ha l'accesso al software. Dunque, il software esiste, è stato creato in modo tale che non sia necessario che ogni attore se ne doti di una licenza. Okay. Questo, diciamo, determina anche un costo accessibile alle strutture della filiera. Quindi è sufficiente un accesso a internet per collegarsi alla piattaforma e andare a scrivere quelle che sono le azioni, le operazioni che sono state fatte con il risultato dei dati che ho ottenuto da quelle azioni. Allora, questo è un pezzo di traccia che l'operatore lascia, diciamo, sulla filiera, insomma. Ok, proviamo a prendere, diversamente dal pane, il pecorino sardo. Questo cosa significa? Che l'allevatore, cioè colui che ha le vacche da latte, dirà: io oggi ho fatto questo lotto di latte, ho prodotto questa quantità, e da qui parte, diciamo, la filiera. Sì, in effetti è così. Tutte le mattine, che sia latte vaccino, che sia latte ovino, viene fatta una cosiddetta raccolta latte. Quando viene raccolto il latte, l'autista, perché poi viene raccolto con un camioncino, ha un'app su uno smartphone, quindi anche in questo caso i costi sono stati contenuti, perché ovviamente lo smartphone ormai è alla portata di tutti e l'app non ha costo, e con quell'app io rilevo le prime informazioni, cioè chi è il produttore e alcune informazioni sul latte, informazioni in questo caso di qualità, qual è la temperatura e qual è il pH. Poi naturalmente questo latte finisce al caseificio, dove si fanno altre analisi, ma si fanno le analisi di quel latte o di quel giro di latte, cioè di quell'insieme di produttori che hanno conferito quella mattina. Certamente. E quindi poi, man mano che si procede, dentro al silos a quel punto avrò per esempio tutta una serie di versamenti che avranno una media di qualità. Certo. E di altre caratteristiche come le linee di grasso, eccetera, e con queste poi andrò a produrre. Ma quando produco la forma saprò di nuovo qual è la provenienza, quali sono state le caratteristiche organolettiche del prodotto che ho utilizzato, e questo poi va a finire sulla forma. E arrivando appunto al piatto, al consumatore, che cosa riceve il consumatore? Chiaramente un prodotto certificato che avrà magari dei bollini, dei QR code, quello che il produttore sceglierà. La tecnologia con cui il produttore intenderà mettere a disposizione le informazioni dipende dalle scelte che fa. Diciamo che noi padroneggiamo benissimo sia la tecnologia oggi più evoluta, che è l'RFID o il QR code, okay, fino a cose più tradizionali. È chiaro che il mondo si sta spostando invece verso la parte di QR code o RFID. Il consumatore vuole l'informazione, certo, adesso. Ma il consumatore soprattutto ha uno strumento che si chiama smartphone. Certo. Ci sono oggi in Italia più di 37 milioni di smartphone, quindi è gioco forza che alla fine quello diventi il terminale di tutti per fare tutto. Quindi diciamo che ci sono due strade, sicuramente quella dell'informazione certificata per il consumatore, ma anche la scelta dell'azienda di essere trasparente, garantire la tracciabilità. È vero, del proprio e tra prodotto. L'altro questo è uno degli aspetti che più oggi richiede il consumatore, la trasparenza dell'azienda. E per la verità non soltanto la trasparenza sulle qualità del prodotto, ma anche su come lo stesso viene realizzato, cioè quali sono diciamo gli interventi fatti sulla filiera che hanno generato magari inquinamento oppure no, con quali diciamo, elementi, certo, ho fatto garantire anche l'origine, garantirne anche l'origine, quanto era distante la produzione dal luogo da dove l'ho comprato, eccetera. Sono tutti temi che io posso mettere durante le mie fasi di tracciabilità e che sicuramente è un valore aggiunto del prodotto. Ecco, la cosa interessante forse da sottolineare è che grazie a questo software, quindi al costo proprio di un software, si ha tutta questo vantaggio, questo beneficio sia per il consumatore che per il produttore. E lo vedo anche un vantaggio per le piccole e medie imprese che appunto popolano il tessuto, diciamo, imprenditoriale del nostro paese, soprattutto in ambito alimentare. Assolutamente sì, perché come ripeto, se io faccio parte di una filiera che produce un prodotto tracciabile, con tracciabilità, non ho necessità di acquistare niente se non un accesso a internet per inserire informazioni, quindi posso andare da niente a ovviamente avere un gran sistema con cui magari gestisco anche la mia azienda e che interfaccio poi con il software della tracciabilità. Mi ma sembra, non è richiesto, ecco, lo sottolineavo perché è un valido strumento per coloro, ecco, che non hanno a disposizione chiaramente investimenti come, certo, possono avere i grandi vendor, i player dell'alimentazione. Noi l'abbiamo proprio pensato per le piccole e medie imprese italiane che poi fanno il grande del tessuto produttivo italiano, insomma. Oh, complimenti davvero Fabio Provedi, grazie per essere stato nostro ospite, grazie, buon a lavoro. Voi. Siamo sempre a Cibus e proseguiamo il nostro viaggio alla ricerca dell'innovazione perché poche ore fa qui a Parma è stato presentato, in particolare qui a Cibus, un progetto che dal punto di vista della ricerca è estremamente interessante. Noi a Mebius ce ne occupiamo spesso, anzi quasi sempre, quindi è doveroso darne notizia. L'Università di Parma è capofila e è stato presentato questo polo per l'innovazione in cui la ricerca si unisce all'impresa su diversi ambiti. In particolare un aspetto interessante è che ci sarà tutto un polo legato all'innovazione e alla ricerca produttiva del cibo che si chiamerà Country Food Lab, e un altro aspetto interessante è che ci sarà una parte dedicata al tecnomedicale. Qui con me c'è il professor Furio Brighenti, buonasera, grazie di averci raggiunto, prorettore alla ricerca dell'Università di Parma e docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti. Professore, magari facciamo una breve introduzione, la notizia è già bella, nel senso che la nascita di un polo con queste caratteristiche è già interessante. La ricerca e l'impresa si mettono insieme, il trasferimento tecnologico nel nostro paese è importante, certo, e quindi i lavori sono già partiti, quindi non è che parliamo di un progetto che chissà se si farà, è già partito e il termine è 2017. Assolutamente sì. Una brevissima premessa: che cosa diventerà, che cos'è, qual è la nostra ambizione nel creare questa opportunità per le imprese e ovviamente anche per l'università. Noi stiamo creando un ecosistema di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico all'interno di un'area che è già fortemente caratterizzata da ricerca di alto livello. Ne abbiamo a disposizione 70 ettari al campus a sud di Parma, una posizione fantastica dove esistono già circa 10.000 metri quadri di laboratori, che sono laboratori attrezzati dai nostri dipartimenti delle aree scientifiche e tecnologiche. In questo campus che ha, dicevo, questa estensione di 70 ettari, ogni giorno sono presenti 500 ricercatori, se aggiungiamo altri 250 ricercatori in formazione, dottorandi di ricerca, postdoc. Ci sono 10.000 studenti che vengono a fare la loro attività di didattica, ma anche di studio, di preparazione di tesi di laurea. Soltanto in quest'area noi attraiamo all'incirca, dati dell'anno scorso, abbiamo tratto quasi 7 milioni e mezzo di euro di finanziamenti, beh, in gran parte su 400 progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico. Quindi esiste già quello che potremmo dire un'azienda, un'impresa, che è l'impresa dell'innovazione, della ricerca, chiaramente con anche l'aspetto fortissimo della formazione, no, delle competenze. Certo. In questo contesto qua noi abbiamo lanciato questa iniziativa per incubare, per attrarre, per mettere vicino a noi e in diretto contatto una quarantina di aziende. Il progetto si declina in queste tre aree: l'area, diciamo, più di innovazione legata alle tecnologie ingegneristiche, al big data, ICT, un'area dedicata al settore dell'innovazione nell'area alimentare, inclusa la nutrizione ovviamente, e poi il terzo sul biomedicale, che invece avrà una collocazione diversa, sarà all'interno del campus delle medicine, quindi nell'azienda integrato ospedaliero universitario di Parma. Quindi ci saranno, diciamo, laboratori certamente, spazi per le imprese, spazi per le imprese nascenti, quindi le start-up e gli spin-off, e poi anche una scuola di studi avanzati post laurea, che è, diciamo, quello di cui andate orgogliosi. È un po' un fiore all'occhiello. Questa è un'altra iniziativa che si coordina, anche ovviamente si integra con il parco scientifico, ed è la nascita di una scuola, di un istituto di studi avanzati sugli alimenti e sulla nutrizione, chiaramente l'acronimo è in inglese perché sarà una scuola internazionale. Che ha lo scopo di raccogliere, riunire e coordinare tutta la formazione post laurea. Quindi su questa scuola insisteranno i dottorati, su questa scuola insisteranno i master specializzati, i corsi di perfezionamento e poi soprattutto le summer school. E uno dei primi temi che so che toccherete, insomma, con questa summer school, uno dei primi corsi, sarà dedicato proprio alla comunicazione del rischio, della sicurezza in ambito alimentare. Esatto. Noi anche a Mebius ce ne occupiamo spesso, è un tema che ci è molto caro e che agli ascoltatori interessa. Assolutamente sì, no? Tutti quanti siamo un po' spaventati a volte di quello che sentiamo, no? Ma fa bene, fa male, è giusto che io faccia... Da dove viene? Da lì allora no. Questo è un tema importantissimo. Noi abbiamo qua a Parma, fra l'altro, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che fa proprio l'analisi del rischio. Loro sono quelli deputati a valutare dal punto di vista scientifico qual è il rischio associato agli alimenti, ma non solo, ai pesticidi, all'animal welfare, al plant. E noi dobbiamo pensare una cosa: noi siamo in una prospettiva demografica che vedrà per forza di cose nei prossimi 30 anni un forte cambiamento delle supply alimentari, no? Di quello che succederà dal punto di vista questo vuol dire nuovi prodotti, questo vuol dire nuovi ingredienti, nuove tecnologie, siamo sempre più urbanizzati, quindi abbiamo bisogno di portare alimenti da dove si coltivano a dove si consumano, e quindi la valutazione dell'impatto ambientale, la valutazione della sostenibilità ambientale. Tutte queste cose richiedono un'analisi attenta di quali sono i rischi, quali sono i benefici, quali sono le opportunità e soprattutto la comunicazione di questi aspetti. E purtroppo non c'è niente, no? Lo sappiamo, c'è molto poco, ecco, ci viene da dire. Noi non vediamo l'ora di raccogliere, di raccontare, insomma, i frutti di questo polo tecnologico che è alle porte, che sta per arrivare, quindi ci aggiorniamo senz'altro tra poco tempo. Grazie professore, speriamo buon lavoro 2017. Davvero. Ma certamente. Grazie. Buon lavoro. Il nostro racconto qui da Cibus Parma sulle tecnologie e l'innovazione in ambito di alimentazione e cibo termina qui. Potete trovare tutti gli spunti, le fotografie e gli approfondimenti sui nostri social. moebius@radio24.it è la mail sulla quale ci potete scrivere anche le vostre domande di scienza, come già fate. Io vi saluto e vi auguro una buona settimana a tutti e a tutte. Ciao!